fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Amici di Ristoradio Convento, benvenuti, benvenuti. Abbiamo aperto il nostro spazio radiofonico, come ci piace dire sempre. Abbiamo acceso le luci e abbiamo aperto le porte ai nostri festeggiati per un altro sabato Dinner and Dance qui al convento di Lonato. C'è chi fa più o meno strada per raggiungerci. Loro un po' ne hanno fatta, hanno scartato un po' la nebbia con la macchina, hanno, insomma... vedi, comode, va in treno siete venute. Che scelta un po' controcorrente. Oh, dai, allora ne capiremo di più. Quello che è importante è che stanno festeggiando una serata bella, una serata altrettanto importante, e abbiamo con noi la festeggiata, la protagonista, e anche le amiche che l'hanno accompagnata. Partiamo con la festeggiata, vai, come ti chiami? Ciao, sono Alessia, ho 35 anni, oggi. Eccolo là, vedi, hai già svelato il motivo della festa. E da dove vieni? Da Milano. Milano, zona di Milano, che noi siamo appassionati di zona. Monza-Brianza. Ah, Monza. E Monza-Brianza. Monza. Beh, quindi non proprio Milano. Milano, appena fuori. 10 km da Milano. 35 anni oggi? Cioè il giorno 19, giusto? 19, oggi è 20. Ah, è sabato. Vabbè, insomma, comunque oggi. E come va? Tutto bene. Senti il peso di un, come dire, di un numero comunque importante, o vabbè, uno vale l'altro? Sei una che sta attenta a quelle cose lì? Ma un pochino sì, dai, sono arrivati questi 35 anni, porca miseria, dopo i 18 sono volati alla grande. Così si moltiplicano, sembra che ne compi due all'anno, dopo 18. Esatto. Però sei in forma smagliante, stai festeggiando con le tue amiche, direi che... Esatto, tra cui una mia amica è amica storica dalle scuole elementari. Ah sì? Dalla culla? Sì, dalle elementari. Dalle elementari? E vi siete portate avanti fino ad oggi? Fino ad oggi. Allora vi faccio già la domanda delle domande, visto che solitamente si chiede come si tiene vivo un rapporto di coppia. Chiediamo come si tiene vivo un rapporto d'amicizia così duraturo, perché va da sé che le persone cambino, si trasformino, e non è detto che quelle che abbiamo conosciuto all'inizio dell'amicizia rimangano, cioè nel senso, cambiando, insomma, rimangano comunque così tanto amiche, le strade magari ci separano, insomma, tante cose che possono succedere nella vita. Voi come avete fatto a restare così unite fino ad oggi? Ok, che è fondamentale. Diciamo che Sincerità, quindi sincerità fondamentale, bene nel male, certo, vabbè, giusto, come giusto che sia, nel bene e nel male. A proposito di amiche, vai, ce le vuoi presentare? Sì, alla mia sinistra Santina, direttamente da letto, e alla mia sinistra ancora Serafina, direttamente da letto. Ok, mentre l'amica storica? Roberta. Siamo a 500 metri da casa. Sì, ti chiami? Roberta, perfetto, perfetto. E no, raccontatevi un po' di questa scelta di venire col treno, col Frecciarossa. Perché non c'ha voglia di guidare. Ah, vedi, è finito così. Sì, beh, comodo. Eravamo tutte donne, adesso. Sì. Allora, andiamo in treno, che comodo. Ma dormite in zona o? Sì, dormiamo. Ah, rimanete qui anche domani? Sì, domani trascorriamo la domenica. Infatti volevo capire che tipo di Frecciarossa tornava dalle 3 del mattino. Infatti volevo capire, ho detto, ma non credo che alle 3 del mattino ci sia un treno utile, no, quindi tornate domani. Avete già in programma qualcosa? O all'avventura? All'avventura, quindi non avete programmi fissi. Lo so, non lo sembra promettere bene, però vediamo. Beh, mal che vada, sapete che è la... Esatto, c'è la soluzione terme, però infatti stavo dicendo quello, ma non sapevo se eravate state prevenute nel portarvi un costume, ma poi ho pensato che siete donne, quindi avete anche tipo il monboot da sci per ogni evenienza, anche la tuta da... Esatto, cioè tipo avete anche la tuta da sci pronta, perché le donne si sa che quando si muovono sono pronte ad ogni evenienza e a qualsiasi cosa, e anche hanno un mese di cambi, perché si sa mai che per un mese il treno non passi, e quindi loro devono essere sempre comunque perfette e di tutto punto. Immagino di sì, ma vi riuscite anche a trovare, a vedere a Milano, o è più complicato vista comunque l'affollamento della grande città? Riuscite a trovarvi? Ma neanche con le ragazze di lei. Ok, quindi riuscite a mantenere questo. Anche perché Milano Lecco. Sì, non è scomodissimo. Milano Lecco, di mezzo Seregno, aperitivo cena. Esatto. Sì. Serata. Ok, ok. Lei sì. Magari un certo, certo. Cosa fate nella vita di bello? Cioè, lei è la portiera dell'hotel, da quanto. Cioè, chiaramente non riesce a staccarsi dalla porta perché insomma è il suo habitat naturale, no? No, no, c'è. Perché è direzionata lì. Ok, quindi è per quello che nascosto. Scherzo, una battuta. Vai, cosa fate nella vita? Io sono una segretaria, io sono la maestra. Ah, bello. Ok, e vabbè, portiera. Ah, niente, pensavo, non è la portiera dell'hotel. Avete passioni, qualcosa di vi piace fare? Non lo so, un po'. Magari un po' anticonvenzionale rispetto a Milano. Giocare. La passione particolare no. Non ce l'avete, no. Palestra, ballo, zumba. Sì, insomma, ok. Questa era quello che faccio io durante la settimana. Nonostante la terza gioco a pallavolo. A pallavolo? A tutt'oggi? Tutt'oggi riesce a mantenere l'impegno? Sì, però una sola. Io lavoro a Milano. Ok. Una sola settimana. Ma la squadra è professionista o? No, si gioca per piacere. Ah, infatti dico, perché professionisti una volta a settimana è un po' pochino. Però bello che riesci comunque a mantenere. A mantenere una passione forte. Poi? Lei è grigia, abbiamo detto. Palestra, beh, quindi movimento per tutte in sostanza, tranne lei che vabbè si gira i pollici come attività fisica o guarda le vostre foto che mettete quando uscite dalla palestra o uscite dagli allenamenti. Bene. Anche. Alessia, vuoi mandare un messaggio, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare le tue amiche che sono qui? Sì? Bene. Come animazione, come personale, molto gentili, mangiare ottimo. Bene. Come da recensioni. Sì? Bene. Oh, bene, ci fa. Ci fa piacere, perché no? Anche non voglio mettervi fretta, ma conviene prenotarsi, decidersi alla svelta, perché i capodanni vanno via proprio come il pane. Però vabbè, per 4 vi teniamo il posto, ve lo teniamo caldo. Va bene, ragazze, volete dire qualcosa ad Alessia? Volete farle gli auguri? Sì, Ale, tanti auguri. Auguri. Grazie. Bene, allora. Bello così. Bello chiudere così. Ci uniamo anche noi a questa festa, a questo motivo di festa, e facciamo tantissimi auguri alla nostra e loro Alessia per i suoi 35 anni. Grazie mille e alla prossima. Ciao!